cianone mancerò, serve cianone mancerò, meile ciama, meile ciama, meile ciama ne mie cone. Andame gole mi shava, andame gole mi shava, yode sama, yode sama, yode sama nemi kona. Sarve chamon in manchero, sarve chamon in manchero, neile chama, neile chama, neile chama nemi kona. درک سخن نمی کند.